Sì, penso anch'io che Colin sia molto viziato, convenne Mary. È il ragazzino più egoista e capriccioso che io abbia mai visto, affermò Marta. Non voglio dire con questo che sia come un pesce e che si inventi tutto. Soffre di febbre reumatiche. Una volta ha avuto anche il tifo. Aveva la febbre molto alta e vaneggiava. Mrs. Medlock pensava che non capisse niente e perciò, rivolgendosi all'infermiera, disse: Se la febbre continua così ancora per qualche giorno, questa è la volta buona che crepa. E sarà un bene per lui e per tutti. Si voltò a guardarlo e lo trovò con gli occhi ben aperti che la fissava. Con fare gelido le disse: Mi dia da bere un po' d'acqua e la pianti di dire stupidaggini. Mrs. Medlock pensa che lui non abbia sentito o capito perché non ha detto altro. Ma tu credi che morirà presto? Davvero? Chiese Mary. La mia mamma dice che qualsiasi bambino si ammalerebbe se stesse tutto il giorno senza far niente, senza alzarsi, senza giocare, senza uscire, solo in una stanza. Ma da qui a morire. Mary guardava il fuoco nel caminetto. Marta, disse poi, mi chiedo se gli farebbe bene, come lo ha fatto a me, uscire, andare in giardino, parlare con te, guardare le piante crescere. Oh, tu non sai cos'è successo una volta che avevamo provato a farlo uscire. La carrozzella era ferma vicino a una pianta di rose e lui cominciò a starnutire. Un giardiniere che non sapeva tutta la storia si fermò a guardarlo e lui cominciò a urlare che lo guardava perché voleva vedere la sua gobba. Insomma, fu un capriccio così violento che per tutta la notte non poté dormire e non fece dormire neanche gli altri. Oh, se dovesse fare un capriccio con me, dichiarò Mary, lo pianterei lì e non andrei mai più a vederlo. Oh, se lui ti volesse vedere, tu dovresti finire per andarci. Marta fu interrotta dal suono del campanello, si alzò e scappò via di corsa. Mi sa tanto che l'infermiera vuole andarsene un po' a riposare e mi chiama per stare un po' con lui. Eppure, dopo 10 minuti era di ritorno con un'espressione gioiosa sul viso. Mary! Esclamò, lo hai proprio incantato, altro che bacchetta magica. Pensa! Ha voluto alzarsi, andare sul sofà e sta guardando i suoi libri con le figure. Ha mandato via l'infermiera. Le ha detto di starsene per conto suo fino alle 6. Io sono andata nella stanza dell'infermiera quando ha suonato il campanello e lei mi ha detto che usciva fino alle 6 e che io dovevo stare attenta se Colin chiamava. Lui ha chiamato subito dopo e mi ha detto: Voglio che Mary Lennox venga qui a parlare con me. Mi raccomando, non dir niente a nessuno e falla venire prima che può. Mary era felicissima di andare. Veramente le sarebbe piaciuto di più andare con Deacon in giardino, ma visto che il tempo era brutto e non poteva uscire, l'idea di passare il pomeriggio con qualcuno l'attirava molto. Arrivò subito nella stanza di Colin. Notò che alla luce del giorno era ancora più bella che a lume di candela. Alle pareti c'erano 3 grandi biblioteche con libri rilegati, c'erano quadri e tendaggi molto raffinati. Il tappeto che copriva tutto il pavimento era soffice, aveva dei colori vivaci e dei disegni fantastici. Colin sembrava uscito da uno dei quadri. Indossava una vestaglia di velluto e sedeva appoggiato a un grande cuscino di seta. I suoi occhi brillavano e le sue guance erano leggermente colorite. Vieni, vieni avanti, disse quando la vide entrare. Ho pensato a te tutta la mattina. Anch'io ho pensato a te. Rispose lei. Non puoi immaginare quanto Marta sia spaventata. Teme di perdere il posto. Dice che se Mrs. Medlock scopre questa cosa, accuserà lei di averci fatto incontrare. Colin aggrottò la fronte. Vai a chiamare Marta, disse e indicò una porta. Deve essere in quella stanza. Mary andò e tornò con la ragazza che, poveretta, tremava. Hai o no l'ordine di fare quello che voglio io? Chiese Colin. Certo, signore, rispose arrossendo. E Mrs. Medlock ha o no lo stesso ordine? Certo, signore. Bene. Allora, se io ti ordino di dire a Mary di venire qui, come può Mrs. Medlock punirti? Perché mi hai ubbidito? Oh, per favore, signore, non glielo faccia sapere, pregò Marta. Se lei si arrischia a dirti qualcosa per questo, sarà lei a essere licenziata, capisci? E non credo ci tenga, stai tranquilla. Grazie, signore, balbettò Marta. Farò come vuole lei. Ecco, è questo il tuo dovere. Ora vai. La porta si chiuse dietro la ragazza e Colin si volse verso Mary. Lei lo stava guardando con un'espressione strana. Perché mi guardi così? Le chiese. A cosa stai pensando? Sto pensando a due cose. Dimmele. La prima, disse Mary accomodandosi sul suo solito panchetto, è che mi hai fatto tornare in mente una cosa vista in India. Un Raja ragazzino, cioè un principe della tua età. Aveva rubini, smeraldi, diamanti dappertutto. Parlava ai suoi sudditi come tu hai fatto con Marta. Tutti dovevano ubbidire ai suoi ordini, subito e senza discutere. Credo che sarebbero finiti ammazzati se non avessero ubbidito. Oh, vorrò sapere ancora molte cose sui Raja, disse lui con un sorriso. Ma prima dimmi l'altra cosa. Stavo pensando a quanto siete diversi tu e Deacon. Chi è Deacon? Che razza di nome? Poteva benissimo parlare di Deacon, pensò Mary, senza parlare del giardino segreto. A lei era piaciuto ascoltare Marta quando parlava di suo fratello. È uno dei fratelli di Marta, spiegò. Ha 12 anni, ma guarda, è unico al mondo. Riesce a incantare le volpi, i corvi, gli scoiattoli, gli uccelli, proprio come in India fanno con i serpenti. Lui suona un'armonica a bocca e quelli vengono giù dagli alberi e fuori dalle tane. E stanno fermi, vicino a lui, a sentirlo. C'erano dei bei libri sul tavolo accanto al divano e Colin ne prese uno in mano. C'è un incantatore di serpenti qui, guarda. Mary si avvicinò. L'illustrazione era molto bella e ce n'erano altre, tutte interessanti, ma Colin, dopo averne guardata qualcuna, tornò alla prima. Davvero lui sa fare queste cose? Lui suona e loro vengono a sentirlo. Ma lui dice che non è un incantatore. Gli riesce perché ha vissuto e vive nella brughiera e conosce tutto degli animali che ci stanno. Dice che a volte gli sembra di essere un uccello o un coniglio selvatico. Quando parlava, dico parlava, con il pettirosso, sembrava proprio che facessero domande e risposte e si capissero. Colin si appoggiò all'indietro sui cuscini. Raccontami ancora di Deacon. Pensa, conosce tutti i tipi di nidi, tutti i tipi di uova. Sa riconoscere subito se quel nido è di un tordo, di un'allodola o di un altro uccello qualsiasi. Sa dove sono le tane delle lontre, dei tassi, dei conigli selvatici. E non lo dice agli altri ragazzi perché ha paura che possano andare là a spaventare le sue amiche bestiole. Sa tutto, tutto sulla brughiera e su chi ci vive, animali e piante. Come fa lui a passare la sua vita nella brughiera? Deve essere un posto orribile, da quello che si vede dalla finestra. Guarda, così grande, desolato. Non è vero, protestò Mary. È un luogo bellissimo, pieno di vita. Ci sono migliaia di piante, migliaia di piccole creature indaffarate a costruirsi nidi o a scavarsi tane, sempre cinguettando, cantando o squittendo, insomma, parlando fra loro. Diceva le cose che Deacon e Marta le avevano detto, ma era così convincente nel suo entusiasmo che Colin le chiese: La conosci bene tu, la brughiera? Veramente non ci sono mai stata. Anzi, sì, una volta, quando sono arrivata alla stazione di Thwaite, c'era una carrozza e abbiamo attraversato la brughiera per raggiungere la casa. Devo dirti che non mi è piaciuta per niente allora, ma era buio, era notte, non vedevo niente. Poi ha cominciato Marta a parlarmene. E poi Deacon, sai, lui parla in modo che ti sembra di vederle le cose. Quando mi descriveva l'erica e le ginestre fiorite, il sole caldo d'estate, il profumo di miele che i fiori mandano sotto i raggi del sole e tutte le api e le farfalle che svolazzano felici, ecco, mi sembrava proprio di essere là e di godere di tutte queste belle cose. Quando uno è malato non può vedere mai niente, constatò con voce triste Colin. Ma sembrava che ascoltasse un suono sconosciuto, distante, che aveva attratto la sua attenzione quasi contro la sua volontà. Non sapeva di cosa si trattava, ma lo interessava in qualche modo. Se continui a restare in questa stanza, per forza non vedrai mai niente, replicò Mary. Dimmi tu come farai ad andare nella brughiera? Non posso neanche reggermi in piedi. C'era un tono risentito nella voce di Colin, ma Mary non si lasciò impressionare. Dopo un attimo di silenzio, disse calma, ma un giorno ce la farai. Ah, secondo te un giorno io andrei nella brughiera? Io un giorno morirò, ecco cosa sarò capace di fare. Che cosa ti dà questa sicurezza? Chiese Mary con un tono freddo, senza commuoversi. Non le piaceva assolutamente sentire continuamente parlare di morte, E poi le sembrava che Colin quasi si divertisse a ripetere quelle cose tristi su di lui. Lo so da sempre. Ti ho detto che l'ho sempre sentito dire da tutti intorno a me. Quando pensano che io non senta. E credo anche che molti lo desiderino. Mary cominciava ad arrabbiarsi. Strinse le labbra prima di rispondere, poi sbottò. Non so gli altri, ma io, per esempio, non lo desidero affatto. Quindi, non fare accuse a vanvera. Chi sono questi molti che lo desiderano? I servi. E naturalmente il dottore che mi cura e che erediterebbe tutto. Sai, a volte, quando sto peggio, mi sembra di vederlo gongolare. Quando ho avuto il tifo mi sembrava addirittura ingrassato. E poi penso che anche mio padre sarebbe contento. È una cretinata enorme questa che dici, non ci credo. Colin non si aspettava questa reazione. Si volse verso Mary e la fissò intensamente. Non ci credi? Mary non rispose, solo fece cenno di no con la testa. Rimasero in silenzio per qualche minuto. Pensavano tutti e due a cose cui generalmente i bambini non pensano. Poi fu Mary a parlare. Sai, a me piace quel dottore di Londra. Quello lì che ti ha fatto togliere il busto con le stecche di ferro. Anche lui ti ha detto che devi morire presto? No. E cosa ha detto lui? Lui ha detto, e non bisbigliato come gli altri, questo ragazzo non ha niente che non possa sparire, basta che lui lo voglia. Mettetelo in condizioni di volerlo. Sembrava molto arrabbiato. Bene, io forse so chi potrebbe metterti in condizione di... chi potrebbe farti cambiare umore. Dicono. Lui parla sempre di cose vive, di cose semplici, belle. I suoi occhi non stanno mai fermi. Oh, guarda il cielo per seguire il volo degli uccelli, o la terra per vedere cosa fanno le piante. Poi ride così forte con quella bocca larga che mette allegria. E ha le guance rosse, rosse come ciliegie. Il solo parlare di Deacon rendeva l'ambiente più allegro. Mary avvicinò il suo panchettino al divano, dove stava. Senti, propose, lasciamo stare tutti i discorsi di malattie e morte, non mi piacciono, eh? Parliamo di vivere, di tante cose che possiamo vedere, fare, parliamo di Deacon, della brughiera, della primavera che sta arrivando. Cominciarono così a parlare della famiglia di Marta, degli 11 fratellini che correvano nella brughiera come cavallini selvatici e ingrassavano a furia di respirare aria buona perché con 16 scellini la settimana 13 persone non avevano troppo da scialare. Parlarono di Marta che era già a lavorare così giovane, ma che era felice di farlo perché poteva aiutare i suoi, del suo buon umore, della gioia che trovava nelle piccole cose. Parlarono della mamma di Deacon. La corda da saltare, dei germogli verdi ai quali Mary aveva fatto spazio intorno perché potessero respirare. Il tempo passava senza che se ne accorgessero. I due ragazzi parlavano e ridevano, ridevano di niente come fanno sempre i bambini quando sono felici di stare insieme. Mary cominciò a imitare Ben. Il suo modo di buttare il berretto indietro sulla fronte, il suo modo di chiamare il pettirosso e di parlargli. Colin rideva, rideva, si era dimenticato della sua spina dorsale debole, di tutti i suoi guai, e si era messo quasi a sedere sul divano, appoggiandosi pochissimo ai guanciali. A un tratto un pensiero gli traversò la mente. Vuoi saperne una bella? Non ci abbiamo pensato finora, ma noi siamo cugini. Si guardarono negli occhi e scoppiarono a ridere. Sì, è vero, Mary agitò una mano. Ciao, cugino. Colin rispose nello stesso modo: Ciao cugina! E giù a ridere tutti e due. Sul più bello, la porta si aprì ed entrarono Mrs. Medlock e il dottore. Rimasero impietriti sulla soglia. Mio Dio! Esclamò lei appena riprese un po' di fiato. Mio Dio! Cosa sta succedendo qui? Chiese il dottore molto serio. A questo punto Mary ripensò di nuovo al giovane Raja. Colin non si era scomposto più di quanto avrebbe fatto se il gatto o il cane di casa fossero entrati nella stanza. Vi presento mia cugina, Mary Lennox, disse con quella sua aria sicura. Le ho chiesto io di venire qui a farmi compagnia. Mi piace stare con lei e la chiamerò spesso qui da me. Il dottore rivolse uno sguardo di rimprovero a Mrs. Medlock. Mi creda, dottore, io non so come possa essere successo. Le persone di servizio. Avevano e hanno ordini severissimi. Non credo che nessuno abbia osato parlare. Infatti, disse Colin, nessuno ha parlato. Mary mi ha sentito piangere la scorsa notte, è venuta a cercarmi e mi ha trovato. Tutto qui. Sono molto contento che sia successo. E smettila di agitarti, Madrock. Basta con le tragedie. Il dottore si sedette sul divano accanto a Colin e gli tastò il polso. Mary osservò che aveva un'espressione dura, contrariata. Vedi? Ti sei agitato troppo, sai che ti fa male, disse scuotendo la testa. Mi agiterei ancora di più se non permetteste a Mary di stare qui con me, disse freddamente Colin, mentre i suoi occhi assumevano un'espressione minacciosa. Io oggi mi sento bene, come non mi accadeva da tanto, ed è stato parlare con lei che mi ha fatto bene. Anzi, dirò che ci servano il tè a tutti e due insieme, così lei non dovrà andarsene e starà con me fino all'ora di cena. Il dottore e Mrs. Medlock si scambiarono uno sguardo preoccupato, ma nessuno dei due osò contraddire Colin. Sì, ha veramente un aspetto discreto, azzardò lei, però anche stamattina presto stava benino, prima che questa bambina entrasse qui. Questa bambina è entrata questa notte, se vuoi saperlo, Madrock, ed è stata a parlare con me per delle ore, mi ha anche aiutato ad addormentarmi cantandomi una canzone indostana. È per quello che stamattina mi ha trovato che stavo benino. È per quello che ho chiesto subito la mia colazione e ho mangiato bene. È per questo che voglio il tè adesso. Vai a dirlo all'infermiera, Madrock. Il dottore toccò la fronte di Colin, guardò gli occhi, fece aprire la bocca e guardò in gola. Parlò sottovoce con l'infermiera quando questa entrò con il vassoio del tè e rivolgendosi a Colin fece ad alta voce tre raccomandazioni. Primo, non parlare troppo a lungo, ricordati che ti stanca. Secondo, non dimenticarti che sei malato, devi avere dei riguardi. Terzo, ricordati di non fare sforzi, potresti peggiorare. A Mary sembrò che il dottore facesse apposta a cercare le cose più spiacevoli da ricordare a Colin, che però tirò fuori un'altra volta la sua aria da ragia. E se io invece dimenticassi tutto questo? Stare con Mary, parlare con lei, non mi ha lasciato tempo di pensare alle mie disgrazie e mi sento meglio. Il dottore non rispose niente e se ne andò con aria insoddisfatta. Prima di uscire lanciò un'occhiata verso quella bambina seduta sul panchetto. Boh, cosa ci troverà poi in quel grissino? Pensò e se ne andò sospirando per il corridoio. Di solito mi fanno mangiare per forza quando non ne ho voglia. Oggi invece che desidero il mio tè perché non sono solo a mangiarlo, mi fanno aspettare, disse Colin, accennando al vassoio che l'infermiera aveva deposto sulla tavola. Ah, tu lo mangi il tè? Scherzò Mary. E queste tu le bevi? Rispose lui, accennando alle profumate brioche che attendevano croccanti su un piatto di porcellana bianca. No, queste io le divoro, replicò Mary, afferrandone una e portandosela alla bocca. E così fece anche lui e risero di nuovo insieme mentre facevano merenda. Capitolo 15. Costruire un nido. Continuò a piovere per una settimana. Sebbene non potesse vedere né Deacon né il giardino segreto, Mary non aveva però il tempo di annoiarsi. Le giornate trascorrevano in fretta, tutti i giorni si recava a trovare Colin nella sua stanza e parlavano di Raja, di giardini, di Deacon, di primavera, di pioggia, insomma di tante cose. Avevano anche sfogliato insieme molti dei bellissimi libri di Colin e qualche volta si erano divertiti a leggersi qualcosa l'un l'altro. Mary aveva osservato che quando suo cugino si interessava ad un argomento o si divertiva, non sembrava per niente un bambino ammalato. C'era solo quel pallore del viso e quel fatto di stare sempre sdraiato sul sofà o sul letto che lo rendevano diverso dagli altri. Durante le loro lunghe chiacchierate, Mary era stata sempre molto prudente quando aveva accennato al giardino segreto, perché voleva conoscere meglio Colin, essere sicura di potersi fidare di lui. Era così diverso da Deacon. Forse era capace di mantenere un segreto, forse no, però l'idea del giardino misterioso, l'idea che nessuno dovesse saperne niente, gli piaceva tanto che Mary era più per il sì che per il no. Ma c'era un'altra cosa di cui bisognava essere sicuri prima di parlare apertamente. Sarebbe stato possibile portare Colin nel giardino senza che nessuno se ne accorgesse? Quel dottore aveva raccomandato di portarli fuori e Colin aveva detto che forse gli sarebbe anche piaciuto uscire se fosse stato per andare in quel giardino. Forse vivere almeno qualche ora all'aperto in compagnia di Deacon e del Pettirosso, osservando le meraviglie della natura in primavera, avrebbe potuto allontanare da lui quella triste ossessione della morte. Mary si era guardata allo specchio ultimamente e aveva dovuto dar ragione a Martha che le aveva detto: "Guardati un po' allo specchio e dimmi se non hai cambiato faccia". Oh, si era vista diversa, e quanto! Dalla pallida bambina musona e triste venuta dall'India. Se la vita all'aria aperta le aveva fatto così bene, perché non provare con Colin? C'era però il fatto che lui non voleva vedere nessuno, forse non avrebbe voluto vedere neanche Deacon. Perché ti arrabbi se qualcuno ti guarda? Gli chiese un giorno Mary. Mi ha sempre dato fastidio, fin da quando ero molto piccolo. Ti ho detto che ho sempre sentito la gente bisbigliare intorno a me. Tu pensa a me sul carrozzino e a tutte le signore che passavano. Mi guardavano, si fermavano a parlare con la bambinaia. Uno strazio. Dicevano sempre che non sarei diventato grande, che sarei morto presto. Qualcuno mi accarezzava la guancia e diceva: "Povero bambino". Una volta non ne potevo più e morsi la mano di una. Fuggì gridando e io più forte di lei. Oh, avrà pensato di aver avuto a che fare con un cane rabbioso? Disse Mary, per niente conquistata da quella prudezza. Non mi interessa cosa avrà pensato. Mi chiedo come mai non hai urlato e non mi hai morso quella notte che sono venuta a cercarti. Pensato che tu fossi un fantasma o un sogno. Non puoi mordere né l'uno né l'altro e se urli non si spaventano. Senti, ti darebbe fastidio se a guarirti o a guardarti fosse un ragazzo della nostra età? Colin si lasciò andare sui cuscini e rimase un po' a pensare, fissando il soffitto. Poi disse, soppesando ogni parola: ce n'è uno che penso non mi darebbe fastidio. È quello che conosci anche tu, quello che sa dove sono le tane delle volpi. Quello che ha quel nome buffo, Deacon. Oh, sì, sono sicura che lui non ti darebbe fastidio. Non dà noia a nessuno degli animali selvatici, continuò Colin, pensando sempre a voce alta, e forse per questo penso che non darebbe noia neanche a me. È una specie di incantatore di animali selvatici, e io sono un ragazzo selvatico che vive qui, nella sua tana. Scoppiò a ridere, e Mary con lui. Mary fece il gesto di graffiare, alzando una mano tipo zampa. Lui aprì la bocca come se volesse mordere e richiuse i denti con forza, facendo la faccia feroce. Risero ancora e ancora, e Mary fu sicura che non ci sarebbe stato nessun problema per l'incontro con Deacon.